1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:21 minuti, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo di spese, se volete, del palazzo e di spese nostre. Abbiamo titolato lo spazio delle 8:15 Vacche magre, casta grassa. Perché gli italiani sono sempre alle prese con gli effetti della crisi, mentre la politica a tutti i livelli sembra dilapidare risorse, non solo per i consiglieri della regione e delle varie regioni indagati. Oggi ci sono tanti articoli a proposito sui giornali, e giornali che andiamo appunto a sfogliare. In questo 8 novembre, venerdì, i titoli intanto, quasi tutti i quotidiani aprono sulla decisione della BCE di tagliare i tassi. La BCE taglia i tassi a sorpresa. Questo è il titolo del Sole 24 Ore, mentre Corriere della Sera e Stampa hanno lo stesso identico titolo, che è Costo del denaro mai così basso. Per Repubblica, giù i tassi, Draghi spinge la crescita. Il Messaggero, mossa BCE, mutui meno cari. Il Secolo XIX, giù i tassi, la sorpresa BCE. Mentre Libero, in Europa barano tutti, ma paghiamo solo noi, impiccati al 3%. Avvenire, Draghi brucia i tassi e scalda la ripresa. La Politica invece, per il Fatto Quotidiano, PDL PD salta tutto. L'Unità, PD alt al tesseramento, questo è il titolo. Mentre Il Giornale, i guai dell'ingegnere indagato De Benedetti, la vicenda rivelata ieri dalla Stampa per Livrea e presunte morti d'amianto. A proposito di costi della politica, i vari articoli che trovate oggi, ce ne sono. Non vi voglio rovinare il weekend, cari italiani, non ve lo voglio rovinare, ma questi sono gli articoli che pubblicano i giornali, quindi rassegnatevi, come scrivo io su Twitter, l'hashtag rassegnati. Pensioni dei deputati, cresce la spesa, siamo sul Sole 24 Ore a pagina 20. Mariolina Sesto racconta dei bilanci della Camera e del Senato che sono stati pubblicati e approvati in settimana. Ebbene, non tutto cala, aumenta dell'1,63% rispetto all'anno scorso a Montecitorio e del 6,22% a Palazzo Madama, dunque al Senato. Le spese per i vitalizi, leggasi le pensioni degli ex deputati. Abbiamo tagliato pesantemente la spesa corrente, fa sapere uno dei questori, ma purtroppo i tre quarti di bilancio se ne vanno in stipendi e pensioni di deputati e senatori. D'altronde c'è il ricambio di parlamentari, a ogni elezione ci sono alcuni che escono, che hanno magari varie legislature al passato, e quindi questo va a aumentare il corpo della spesa dei vitalizi. Ci sono persone, come c'è stato quest'anno in cui si è votato, che hanno lasciato il Parlamento, avevano varie legislature alle spalle, hanno maturato il diritto ai vitalizi, e dunque questo va a aumentare il monte spese. Ma andiamo su Libero, dove troviamo due pagine dedicate a queste spese della cosiddetta casta, i conti della casta, pagina 13 di Libero. Grasso Pavone spende in spot più della Boldrini. Ci sono alcune, c'è un'analisi delle spese del Senato analizzate da Franco Bechis, sempre del bilancio approvato mercoledì scorso. Ci sono mini risparmi, ma c'è questa cifra, 740.000 euro. Nella Camera dei Deputati è ben 2.026.000 euro. Per che cosa? Per le spese per il cerimoniale e la rappresentanza. Fa sapere Libero, all'interno ci sono 185.000 euro di spese per pubblicazioni di rappresentanze e acquisto di libri d'arte. Insomma, Grasso Pavone spende in spot più della Boldrini, così titola Libero. E a proposito di Senato, pagina 12, un'altra pagina invece dedicata ai senatori a vita. Volete sapere a che percentuale di votazioni hanno partecipato i senatori a vita eletti? Claudio Abbado, 0. Renzo Piano, 0. Carlo Rubbia, 5 votazioni, lo 0,84%. La vera stacanovista, racconta Mattias Mainiero, è Elena Cattaneo, che ha partecipato a 106 votazioni, che sono il 17,85% di quelle a cui avrebbe dovuto prendere parte, quindi una percentuale comunque misera. Strapagati e sempre assenti, la beffa dei senatori a vita, pagina 12 di Libero, i magnifici quattro nominati da Napolitano, costano 700.000 euro l'anno, ma in aula non ci sono mai, e ora i colleghi vogliono tagliare la loro diaria, cioè almeno la parte di stipendio legata al fatto che ti presenti e stai lì a Roma. C'è anche il Corriere della Sera che dedica mezza pagina alla storia di Ugo Zampetti, un altro caso di cui si sono occupati la stampa, sulla stampa e sui giornali varie volte. Segretario generale della Camera, che è un segretario, racconta Sergio Rizzo, a vita, perché fu cambiato il regolamento. Prima stava al massimo 7 anni, ma fu cambiato il regolamento e da quel momento il super funzionario della Camera ha il mandato che non scade mai. Il Movimento 5 Stelle all'attacco sui limiti all'incarico del segretario generale, mentre la carica di Ugo Zampetti è stata trasformata a vita, ha già visto 5 presidenti: Bertinotti, Fini, la Boldrini, Luciano Violante, e poi ce n'è anche un altro, è il quinto presidente con cui collabora, fa sapere Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. Vabbè, non è finita, vi voglio proprio rovinare il weekend allora. A questo punto, già che siamo in ballo, balliamo. A proposito di sprechi o presunti sprechi, la Repubblica fa un'altra pagina sul 500.000 di regali, l'ultimo scandalo Rai. Aldo Fontanarosa, prima pagina di Repubblica. Vi ricordate una vicenda partita da una segnalazione interna al direttore generale della RAI, Gubitosi, in cui si segnalava, e scrive Repubblica anche con un certo livore in questa lettera anonima, che esiste un reparto regali RAI, per fare regali agli ospiti, insomma alle persone che arrivano lì alla RAI, solo che Gubitosi ha fatto indagare e ha scoperto che c'è stato uno sperpero clamoroso, 500.000 euro di regali in 4 anni, un dirigente della RAI che cade, scrive Repubblica, un ufficio omaggi che viene ora ridimensionato, Viale Mazzini mette i sigilli alla struttura interna che distribuiva regali ai VIP del paese, capace di spendere oltre 500.000 euro in 4 anni e mezzo, orologi, penne, gemelli d'oro, d'argento, bracciali, ciotole, ovetti da gioielleria, scatole di pregio per i preziosi doni, è una nuova regalopoli, si chiede Repubblica, e poi la pagina 18 dedicata a questo tema, il titolo è Nuova tempesta sulla RAI, 500.000 di regali e spesso non si sa neanche a chi. Perché la RAI all'interno, spiegando e rispondendo a un'interrogazione del senatore Margiotta, ha scritto riguardo alla tracciabilità e ai beneficiari, alla relativa causale di tali beni aziendali, ci sono dubbi, carenze gestionali in ordine alla movimentazione, alla tracciabilità, ai beneficiari, insomma non si sa neanche a chi, non è stato tenuto neanche un resoconto delle persone a cui sono andate a finire questi 500.000 euro in 4 anni. Chiuso comunque l'ufficio omaggi, paga solo un manager, 500.000 euro in 4 anni. Montblanc, orologi, uova, argenteria, gemelli, Ale, ce n'è per tutti. Andiamo in pubblicità. 24 mattino. Allora, la giornata sui giornali la si può dividere su due temi, la politica e l'economia. Partiamo dalla politica, poi l'economia può essere divisa anche qui sulle decisioni della Banca Centrale Europea, con la quale molti giornali aprono, e sulle decisioni invece che impattano più direttamente sui portafogli degli italiani, non che non impattino quelli della Banca Centrale, ma insomma quelli dell'economia legata alle tasse. La politica, per l'appunto, il titolo più efficace forse è quello del Fatto Quotidiano, per riassumere un momento difficile dei due partiti delle larghe intese PD e PDL. Il titolo è PD e PDL salta tutto, questo è il titolo del Fatto Quotidiano, non molto ottimistico per la verità. Allora, il PDL alle prese con che cosa? La galassia, come la fa vedere in un'infografica sul Corriere della Sera, pagina 8, i lealisti, i mediatori, i falchi e gli innovatori. Volete sapere chi nel PDL sta con chi? E li troverete tutti. I lealisti capeggiati da Raffaele Fitto, ma la Carfagna, Romani, Gelmini. I mediatori, Brunetta, Schifani, Gasparri. I falchi, Denis Verdini, Bondi, Santanchè. Gli innovatori sono quelli invece che non farebbero mai cadere il governo. Alfano, Lupi, Quagliariello, Lorenzin, De Girolamo, Cicchitto. Vabbè, in questa galassia pare che stia per saltare tutto. Sabato prossimo, credo il 16, è convocato il Consiglio Nazionale del Popolo della Libertà. Ci sono interviste che ci inonderanno sui giornali da parte degli uni e degli altri. Per esempio oggi parlano alcuni dei governisti, quindi Maurizio Lupi, pagina 9 del Corriere: ma che vili e disertori sono i presunti lealisti a danneggiare l'ex premier. Noi lavoreremo fino all'ultimo per l'unità del partito, ma qui c'è chi in ogni ora, ogni minuto e secondo vuol perseguire la rottura usando contro di noi slogan durissimi. Ci dicono che siamo vili, disertori, ingrati. Io vorrei si leggesse con attenzione il documento che abbiamo preparato e ci si dicesse dove contrasta con Silvio Berlusconi. Questo nell'intervista del ministro Lupi e Elisabetta Soglio. Capite, cari italiani, vi invita a leggere il documento degli innovatori. Sono certo che è la prima lettura che farete oggi prima di buttarvi nelle vostre faccende quotidiane. Intanto parla anche Quagliariello, un altro degli innovatori, intervistato da Repubblica, pagina 7, da Alberto D'Argenio. Il chiarimento deve esserci subito o la scissione sarà inevitabile, così tuona Quagliariello da Repubblica, mentre Il Foglio anche oggi in prima pagina titola: PDL, cronaca di un suicidio perfetto. L'analisi di Salvatore Merlo: gli uomini del PDL si assordano con richiami, insulti, imbonimenti. In Consiglio Nazionale si voterà a scrutinio segreto, dice Roberto Formigoni, è una scarica sonora di pernacchie, lo investe alle spalle come una fucilata. Vergognati, gli risponde Renata Polverini in poco bonario romanesco. E perfino Mara Carfagna, la dolce Mara, perde la grazia. Sei un provocatore, gli dice. Ecco, questo è l'inizio dell'articolo, dell'analisi di quello che sta succedendo all'interno del Popolo della Libertà. Per dire, Micaela Biancofiore, intervistata a pagina 2 del Fatto Quotidiano, dice, intervistata da Fabrizio D'Esposito: Angelino Alfano dunque è un perdente da sempre e Cicchitto, se mette piede in Trentino Alto Adige, lo prendono a schiaffoni. Ecco, questo è il sentore del clima. In tutto questo Berlusconi cosa sta facendo? Beh, rivela il Corriere della Sera, pagina 8 e 9, che è pronto a trovare nuove persone, nuovi giovani. Berlusconi cerca giovani bravi e continua a offrire un ruolo ad Alfano. Ha organizzato una selezione con 120 ragazzi a Villa Gernetto, cioè all'ESMO, e già un interlocutore come Carlo Sangalli, presidente della Confcommercio, di recente si è sentito domandare a bruciapelo da Berlusconi: mi fai i nomi di 3 ragazzi validi da inserire nella mia futura squadra? Insomma, Berlusconi che guarda avanti cercando rinnovamento. Riguardo anche alla figlia, Barbara Berlusconi dice: mi ha scatenato l'inferno nel Milan, ma è brava e tosta. Sapete che Barbara Berlusconi, se avete seguito, ha detto parole di fuoco contro la dirigenza del Milan e quindi di Adriano Galliani. Vabbè, insomma, un Berlusconi che racconta in un retroscena il Corriere della Sera, parla un po' a tutto campo e vorrebbe rinnovare. Dall'altra parte c'è il PD. Il PD che vede un Renzi scalpitare. Ieri, intervistato da Michele Santoro, ospite a Servizio Pubblico, intanto ha parlato del caso Cancellieri. Ve l'avevo detto già ieri a Repubblica questa frase: il Cancellieri non mi ha per niente convinto che avrebbe riaperto il caso Renzi. Il caso Cancellieri ieri in serata è andato anche più duro: il ministro ha sbagliato, è inaccettabile che il caso sia finito così, è stato un errore anche se il caso è chiuso. Ecco, aggiunge questa frase, dunque caso chiuso ma un errore. Fossi stato il segretario del PD non avrei difeso il ministro Cancellieri. Il ministro ha sbagliato, così titola il Corriere della Sera a pagina 10. Ma soprattutto nel PD c'è tutta la questione della rissa vera e propria per il tesseramento che a questo punto si chiuderà domenica, tesseramento che ha creato, come racconta i giornali, dei casi di persone che si sono iscritte per votare per il segretario del PD, ma che con il PD probabilmente hanno poco a che fare. C'è intanto un retroscena del Corriere della Sera, pagina 11, a firma Maria Teresa Meli, che racconta l'umore anche nero di Renzi, che dice ai suoi ragazzi: avete capito il giochetto? Prima tentano di inquinare le primarie, dicendo che chiunque fa votare chiunque, dagli albanesi ai cinesi, lasciando intendere che alle primarie, quando si presenteranno al gazebo cittadini che non frequentano i circoli del PD, può succedere di peggio. Poi tenteranno di sabotarle. Meno gente vota, meglio è, perché così sperano che Renzi conti di meno. Noi, spiega ai fedelissimi Renzi, non ci dobbiamo immischiare in queste storie. Se ci facciamo tirare dentro queste beghe, è peggio. E poi continuano i giornali, per esempio il caso di Asti e Borgomanero, racconta La Stampa, pagina 5. In alcuni casi c'era un albanese che viene intervistato da Pierangelo Sapegno. La verità è il PD che mi ha chiesto di candidarmi, oppure... A Borgomanero la rabbia dei senegalesi che dicono: nel partito c'è razzismo contro di noi. O il caso addirittura, lo racconta Repubblica, lo racconta anche il Fatto Quotidiano, di un segretario, nominato segretario, ma una condanna in giudicato in passato. Io, segretario e pregiudicato, se volete cacciatemi. È stato eletto in un circolo del PD alla periferia di Torino, al circolo Barriera di Milano, in periferia nord di Torino, Vincenzo Iati. 47 anni, un passato di piccoli furti e ricettazione, condanne e giorni di carcere, una denuncia anche per violenze domestiche, da cui però è stato assolto con formula piena. Per la verità, questo passato nel 2010 è stato cancellato con finita penale pulita grazie alla riabilitazione giudiziaria, ma si vede, dice lui ora a Repubblica, che questi marchi sono indelebili anche se si prendono altre strade. E dunque non nego gli sbagli e gli errori che ho fatto, ma è passato tanto tempo, ho fatto un certo tipo di percorso, certo, però non ne avevo mai parlato con nessuno perché non vado fiero di quello che è successo in passato, ma non penso di dovermi mettere un cartello luminoso con su scritto "ho precedenti ma ora sono a posto". Sta di fatto che è stato eletto segretario del PD nella zona periferia nord di Torino e adesso si dice: vabbè, se volete cacciatemi, però la mia fedina penale, grazie alla riabilitazione, è totalmente pulita. Insomma, si parla di questo, la politica, PDL in rotta, PD alle prese con questa vicenda delle false iscrizioni, e invece introduciamo la questione economia con uno che ha certamente le palle d'acciaio, Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Buongiorno Mauro. Grazie Alessandro, caffè pagato per questa introduzione. No, che poi dopo accusano da un giorno che si parla di maschilismo, ecco, dopo il celodurismo di Boss, il commento maschilista, perché Letta avrebbe detto: ho gli attributi e quegli sporcaccioni dell'Irish Times gli hanno tradotto, cioè le balls of steel, le palle d'acciaio. Vabbè, oggi il Sole, come molti giornali, apre su questa vicenda della storia della BCE che ha preso questa decisione. Cosa significa in concreto, Mauro? Ma in concreto, guarda, lo spieghiamo poi nelle pagine interne, c'è tutta una serie di riflessi sia macroeconomici, spieghiamo a pagina 3, ma anche di riflessi per noi, gente comune, insomma, che non si intende di macroeconomia magari, e che significa i riflessi sui mutui, i riflessi sui prestiti, eccetera, eccetera. E nelle nostre pagine, scorrendo, si trovano anche appunto una bussola, ad esempio quella di Andrea Franceschi, per andare a vedere che cosa questo significherà nella vita quotidiana di tutti i giorni. Questo che è una buona notizia. Ieri ci auguravamo della generosità, e questo colpo un po' a sorpresa, insomma, c'è stato, ecco, si sperava, certo. Si pensava che Draghi avrebbe temporeggiato per un altro mese, così non è stato, è una buona notizia. Così come per i fumatori, ma che vogliono, come dire, convertirsi, è una buona notizia quella che riferiamo da Mauro Pizzini nelle pagine di Norme, perché la sigaretta elettronica in azienda, il datore non è proprio obbligato a vietarla, cioè potrebbe anche consentirla. Se uno va a leggere l'articolo, poi vede il diciamo no, la, hai creato, la hai creato, hai creato un casino, cioè tu lo sai che questa mattina negli uffici di Mezza Italia ci saranno gente che si accende le sigarette, dice non rompetemi le balle, lo scrive il Sole 24 ore, si no, può no, fare. Sigarette elettroniche, sì certo, sigarette elettroniche, questo intendo, sigarette sì. elettroniche, però no, ci deve essere una decisione del datore, no, comunque leggete l'articolo adesso, è un po' articolata la vicenda, ecco, ecco perciò... subito che Mauro Meazza teme cause milionarie a lui per aver dato questa autorizzazione a tutti gli svapatori di accendersi. No, no, comunque guarda, se vinco la causa milionaria mi guardo la guida agli investimenti in high tech che mettiamo in finanza, poi il caso Twitter e così. Oppure anche, guarda, scriviamo sulle pagine di moda che ci sono dei marchi della moda che stanno vendendo delle quote, se vuoi. Ci mettiamo in società, 2 euro tu, 2 euro la battuta io, migliore di, su Twitter oggi è di Iena, pagina 3 della stampa, dopo aver rovinato la politica e il giornalista e il giornalismo, ora Twitter pensa di rovinare anche la borsa. Vabbè, questa speriamo è la battuta. Che non sia così. A proposito, hai visto Google che in Francia è stata condannata a rimuovere delle foto considerate responsabile, quindi anche dei materiali, di solito il provider, insomma colui che si limita a gestire il mezzo non è considerato responsabile. Invece nel caso di Max Mosley, ti ricordi, aveva fatto un festino un po' imbarazzante, abbastanza, giravano delle foto, ha citato Google in tribunale in Francia e ha vinto, gli hanno detto che no, Google deve consentire il diritto all'oblio, così si chiama in gergo. Certo. Una cosa interessante di oggi. Poi lo spesometro è una cosa, dico ai miei amici che seguono il fisco, c'è una proroga, non proroga fino al 31 gennaio, è un po' anche lì un mezzo pasticcetto, però insomma meglio che ci sia un po' di tempo in più. Lo spiegate. L'hanno chiamata tolleranza. Tolleranza, introduce il tema tasse che affronteremo dopo le informazioni sul traffico. Intanto, caro Mauro Meazza, ti saluto, buon weekend. Forse, pensa un po', torna al campionato questo weekend, chi lo sa, ma andiamo al traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Eccoci qua, allora, la questione della legge di stabilità. Intanto politicamente sulla legge di stabilità vi segnalo la retroscena di Libero, pagina 2. Salvatore Dama dice che Berlusconi avrebbe detto ai suoi: non voto questa manovra, la legge di stabilità così com'è o la gente ci inseguirà per le strade. Sta di fatto che l'IMU, tormentone IMU, pare davvero che ci sia la svolta, nel senso che stop all'IMU, pagheranno banche e imprese, così pagina 11 del Sole 24 Ore. Marco Mobile e Marco Rogali raccontano che l'aumento degli acconti IRES e IRAP di fine novembre per tutte le società è un maxi acconto fino al 116% per le banche. Questo dovrebbe essere le due soluzioni, dunque banche e imprese, per reperire i 2,4 miliardi di euro che servono per non far pagare la seconda rata dell'IMU. A proposito di IMU e anche tema RAI, Saccomanni prende carta e penna e scrive abbastanza arrabbiato a Libero, che lo aveva criticato ieri, difendendosi sulla RAI e l'IMU: ha equivocato, caro direttore Maurizio Belpietro, c'è il botta e risposta, scontro Saccomanni Belpietro, insomma un Saccomanni che è un po' sulla difensiva e si difende. Tra l'altro, a proposito di tasse, sulla TASI racconta Repubblica, spunta l'esenzione per i redditi bassi, Valentina Conte a pagina 4 di Repubblica, però chiaramente sono tutte ipotesi. Come un'ipotesi invece negativa, sarebbe nefasta, sarebbe davvero di quelle da fare arrabbiare alquanto, la racconta Il Secolo XIX a pagina 3 e riguarda un'anticipazione che già c'era su qualche giornale qualche giorno fa, vale a dire la sanatoria per i concessionari dei giochi, del gioco d'azzardo legalizzato. Allora, è stata fatta una sanatoria per recuperare parte delle contestazioni che vengono fatte in denaro ai concessionari del gioco. Questa sanatoria però pare che sia un mezzo flop, slot, la sanatoria fa flop, ed eccolo la seconda riga del titolo, così aumenta la benzina. No, vi prego, non fatelo, non dovete farlo, ma invece teme Il Secolo XIX che finirà così, Michele Lombardi, siccome le multe da 2,5 miliardi ai concessionari per il gioco d'azzardo legalizzate sono state sanate in un certo modo, e cioè aderite alla sanatoria e vi farà fatto un forte sconto, ma i concessionari, molti di loro, non aderiscono a questa sanatoria confidando che in appello poi queste multe verranno tolte, e dunque il rischio è che scatti questa clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 15 del decreto blocca IMU. Se non si riescono a reperire i soldi con la sanatoria, lo Stato i soldi da qualcuno li deve prendere sempre e comunque, ed ecco che potrebbe scattare l'aumento di accise su benzina, tabacchi e alcolici, e anche nuovi aumenti degli acconti fiscali IRAP e IRES, aumentati fino al 103%. Entro novembre, dunque entro la fine del mese, si risolverà questo inghippo. Vi segnalo come intervista, un'intervista a Emma Bonino, ministro degli esteri, che forse farà discutere qualcuno, chi segue soprattutto la vicenda dei due Marò in India da tanto tempo. Bonino, intervistata da Repubblica, sui Marò spero in buone notizie, ma non sono gli unici italiani in cella. Il ministro dice: preferisco la politica dei risultati, credo nella riservatezza, ma quando Repubblica dice: ma lei ricorda i nomi dei fucilieri? E perché dovrei? Risponde Emma Bonino: beh, per sapere qual è il grado di attenzione che il governo ha su di loro. I nomi li so e non li voglio dire, dice Emma Bonino, perché ho 3.120 italiani in carcere nel mondo. Trovo eccessivo che si parli solo di quelli che arrivano alla stampa. Non voglio far sentire gli altri meno tutelati. E su questo devo dire sono pienamente d'accordo con Emma Bonino. Sui Marò spero in buone notizie, ma non sono gli unici italiani in cella. Questo è il titolo dell'intervista di Repubblica. Ci sarebbe tanto ancora da raccontare, come lo spaccato tragico della madre della ragazzina che si prostituiva a Parioli. Leggete le intercettazioni oggi su tutti i giornali. La madre della ragazzina: che fai? Non te muovi oggi? E la figlia: no, sto male, mamma. E come facciamo? Sto a corto di soldi, dobbiamo recuperare. Cioè la madre che invogliava la figlia, secondo queste intercettazioni, a prostituirsi, minorenne. Ma domani ho scuola. Ebbè, se vuoi ti ritiro dalla scuola, dobbiamo recuperare la settimana di soldi. Che devi aggiungere? Che c'è da aggiungere? Andiamo alla chiusura, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi vince Repubblica, che dedica 3 pagine dal titolo Lontani di casa, per dire in 3 pagine, cari amici di Repubblica, con Vera Schiavazzi che aumentano le liti, diminuiscono i contatti tra vicini, conosciamo gli amici di Facebook meglio del dirimpettaio, e in pratica non conosciamo i vicini di casa, e invece dovresti andare a bussare dai vicini di casa, dovresti andare a suonare ai vicini di casa. La fenomenologia di un condominio moderno, ma chi se ne frega, cari amici di Repubblica? No, il tema c'è, tutto è vero, però insomma dedicare 3 pagine al fatto che non si conoscono i vicini di casa, Repubblica lo ha fatto con Vera Schiavazzi, e vabbè, insomma, e vince il premio la carta costa. Tra l'altro su Twitter metto anche sempre la classifica aggiornata, sul mio profilo Alino Milan mettiamo la classifica aggiornata di tutti i vincitori della carta costa. Fino a questo momento in testa c'è il Corriere della Sera, ma ben tallonato dal giornale e da altri. Evviva, evviva, andiamo al giornale radio.